è stupenda ma dura poco, poco, poco, poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. L'autostrada è là ma ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, poco, poco, poco. E finisce qui la storia di noi due, due ragazzi che si perdono. All'erba sensazioni, riflessi d'oro della catenina, sul seno tuo coperto a malapena. Finimmo poi rubandoci un tramonto, perché negli occhi avevi i tuoi soltanto. Non mi ricordo bene se fu il vento oppure io a sollevarti il mento per dirti il nome mio. Piano piano mi innamorai di te, fu l'amore parlarti per me. Quella sera che il viso ti sfiorai sopra un libro che noi non leggemmo mai. Piano piano mi innamorai di te, fu l'amore che scelse silenzio già pieno di magia. Parlò soltanto la tua fantasia. Tra i tuoi capelli scese primavera, estate, inverno, autunno e poi fu sera. Mi hai detto tante cose, tutto quello che imparai fu dirti sulle labbra, non mi lasciare mai. Piano piano mi innamorai di te, fu l'amore a parlarti per me. Piano la notte si fermò e una stella dentro gli occhi ti lasciò. Piano piano mi innamorai di te, fu l'amore che scelse per me. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. I said I needed you. You say you would always stay. It wasn't me who changed with you, and now you're gone away. Don't you know that now you're gone, that I'm left here all my own. Now I have to follow you and beg you to come home. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me, believe me, I can't help but love you, but believe me, I'll never turn you down. Left alone, just memory. Life's easy and so are we. All this left is loneliness, there's nothing left to fear. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me, oh believe me, oh. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me. Believe me, believe me.